Io non so disputare, ma ti dico che hanno tanto amore alla patria loro, che è una cosa stupenda. Di quante virtù noi abbiamo, essi hanno l'ufficiale. Ciullo nelle... Okay. like this forever, forever young. Give me a- it's going out. It's going out. It doesn't matter. Make it funky. Make it funky. Make it funky.